Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! È il 1812. Disastro francese in Russia, di 700.000 soldati inviati nel paese ne sono rimasti 22.000. Gran Bretagna sotto shock, il primo ministro assassinato da un folle, intanto è guerra con gli Stati Uniti. E prosegue la protesta luddista in Gran Bretagna, almeno 1.000 telai distrutti nel giro di un anno. In Germania esplode un fenomeno letterario, ma sono fiabe per bambini firmate da Jacob e Wilhelm Grimm. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. In molti identificano quel che è successo in Russia come l'inizio della fine della leggendaria imbattibilità di Napoleone. La campagna di Russia, alla quale hanno partecipato anche molti italiani, si è risolta in una tragedia. Per tutta l'estate, dal 23 giugno al 14 settembre, giorno di ingresso di Napoleone a Mosca, era sembrata una marcia trionfale. Una marcia strana, segnata dall'avanzata inarrestabile, ma anche troppo rapida, della più grande armata mai vista in Europa, di fronte alla quale i russi adottavano la tattica di sfuggire il confronto diretto, lasciando però terra bruciata all'invasore. Poi lo scontro vittorioso di Borodino, il 7 settembre, e l'ingresso di un'affamata ed estenuata Grande Armée nell'antica capitale degli zar. Della città tuttavia rimaneva poco o nulla. Gli abitanti l'avevano evacuata, dando alle fiamme le case per togliere riparo ai francesi e alle derrate alimentari per togliere loro il cibo. 4/5 di Mosca sono finiti in fumo, al resto ci hanno pensato gli stessi soldati di Napoleone. La ritirata è stata peggio dell'avanzata. Il generale russo Kutuzov, forte ormai di circa 900.000 uomini, ha costretto i francesi a tornare lungo la strada dell'andata, già percorsa e quindi già saccheggiata. Dissenteria, malattie, gelo e le incursioni dei cosacchi hanno fatto il resto. Si stima che di circa 700.000 uomini ne siano rimasti alla fine 22.000, tra i caduti anche 50.000 italiani. Napoleone, informato di un tentativo di colpo di Stato, è tornato a Parigi di corsa e ha lasciato il comando nelle mani di Murat, che a sua volta è partito di lì a poco per Napoli per salvare il suo regno. A fronteggiare da solo la più grande disfatta delle armate bonapartiste è rimasto il figlio adottivo dell'imperatore, il viceré d'Italia Eugenio di Beauharnais. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. Si pensava che fosse l'inizio di una rivolta o un complotto, ma si è appreso che ad uccidere il primo ministro inglese Spencer Perceval nell'edificio della House of Commons è stato un folle. Si tratta di un ex mercante, tale John Bellingham, che voleva essere risarcito per un'ingiusta detenzione in Russia. Ha fatto cucire una tasca nascosta nel suo cappotto, vi ha messo una pistola e l'11 maggio ha sparato a Perceval. Notizia che arriva in un momento difficile per la Gran Bretagna, tanto sul fronte internazionale quanto su quello interno. Le tensioni commerciali hanno infatti condotto all'inizio della guerra con gli Stati Uniti, mentre si sta estendendo la protesta dei luddisti contro i telai meccanici, che a loro dire tolgono lavoro ai tessitori professionali. Sono 1.000 i macchinari distrutti nel giro di un anno da un gruppo che trova sostegno anche in Parlamento. Lord Byron ha provato ad impedire l'approvazione di una legge di emergenza, in forza della quale sono stati spediti 12.000 uomini a sedare la rivolta. In chiusura andiamo in Germania. La prima pubblicazione di due fratelli berlinesi, Jacob e Wilhelm Grimm, sta diventando un fenomeno letterario. I due, appassionati di tradizioni popolari, stanno raccogliendo le fiabe tradizionali tedesche, appunto, tra mondi popolati di nani e streghe come in Biancaneve o lupi cattivi come in Cappuccetto Rosso. Hanno tratto ispirazione anche da antichi scrittori italiani come Francesco Straparola e Giambattista Basile, come già fece del resto Charles Perrault nel secolo scorso. È tutto, sul nostro sito potete anche scaricare il nostro foglio quotidiano con immagini e notizie, potete visitare il nostro blog o la nostra pagina Facebook e lasciarci un commento, o farlo, come sempre, prendendo penna e calamaio elettronici. L'indirizzo è gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.